Essere e avere di Maria Luisa Pezzali. Dai negozi che trasformano il cartone in arredi temporanei a basso impatto agli store per i prodotti cosiddetti funzionali fino al punto vendita per il matrimonio su misura. Buon pomeriggio da Maria Luisa Pezzali, oggi a Essere Avere, dimmi cosa compri e ti dirò chi sei, parliamo di negozi del futuro e nuove idee. Nello spazio dedicato alla grande distribuzione torniamo invece a parlare di e-reader e per il focus sui trend di Family Style, quando Friends e Family si fondono. Prima ci sono le notizie e curiosità della settimana. La ricetta della Coca-Cola, custodita nel caveau di una banca americana ad Atlanta, accessibile solo a due dipendenti del colosso, è stata rintracciata dal sito This American Life in un giornale del 1979. 125 anni dopo l'arrivo della Coca-Cola sul mercato, cade così il segreto commerciale più longevo della storia. Boom dei gruppi di acquisti partecipativi online, vero e proprio fenomeno del momento in rete. Secondo i dati Nielsen, siti come Groupon, Groupalia, Glamour e simili, dove è possibile acquistare beni e servizi a prezzi scontati, hanno visto raddoppiare le proprie visite. In pochi mesi Groupon, leader mondiale del settore, ha raggiunto in Italia i 5 milioni di utenti. Cercasi nuovi mille per memorabile impresa, rifare l'Italia. 150 anni dopo la spedizione di Garibaldi, il Tour dei Nuovi Mille, viaggio in 7 tappe firmato Telecom Italia, si propone di trovare 1000 giovani innovatori, ricercatori e aspiranti imprenditori con idee e progetti originali e vincenti. La partecipazione al concorso è aperta a tutti. La contraffazione pesa in Italia per oltre 5 miliardi di euro, un business imponente che nel 2010 ha portato al sequestro di oltre 110 milioni di pezzi contraffatti. Non più solo vetrine e scambio di informazioni. Le community di mamme sulla rete fanno scuola e allargano i propri servizi. A Milano, Radio Mamma propone una carta che offre sconti nei negozi, menù bambini ridotto o gratuito nei ristoranti, tariffe agevolate per asili nido, musei e spazi per feste. I ragazzi leggono digitale e spengono la TV. La rivoluzione nell'editoria per teenager arriva dagli Stati Uniti, dove, grazie agli e-book, le vendite di libri per ragazzi sono quadruplicate. Oltreoceano, i libri elettronici per ragazzi coprono il 18% del mercato, contro lo 0,5% dell'Italia. La borsa della spesa. Dottor Brown! Avevo portato questo bigliettino dal futuro! E ora si è cancellato! Certo che si è cancellato! Ma che cosa significa? Significa che il vostro futuro non è ancora stato scritto! Quello di nessuno! Il vostro futuro è come ve lo creerete! Perciò createvelo buono, tutti e due! Lo faremo, Doc! State indietro! Ehi, Doc! Dove vai adesso? Ritorni al futuro? No! Ci sono già stato! Il vostro futuro è come ve lo creerete. Ci sembrava una citazione adatta per parlare del concorso Think Tank Award I giovani progettano il retail del futuro, che ha premiato una serie di progetti per un punto vendita del futuro, progetti firmati da studenti universitari. Organizzato da GDO Week, il settimanale del gruppo 24 ore dedicato al retail, giochiamo in casa per così dire, miglior progetto in assoluto, ex aequo con Your Date, matrimoni su misura, è risultato Cartone, arredi temporanei a basso impatto. Ci spiega di cosa si tratta Jacopo Bonacci, uno degli studenti del Politecnico di Milano, autori del progetto. Consiste nella creazione di un retail, quindi uno spazio di vendita, che è suddiviso in varie parti, quindi una parte iniziale in cui si può riciclare il materiale, Successivamente vi è uno spazio di personalizzazione dello stesso. Con la personalizzazione si riesce ad arrivare ad un progetto, una sedia, un elemento d'arredo in cartone che viene praticamente personalizzato in base alle dimensioni e alle richieste dell'utente. Il materiale è a basso costo, è un materiale riciclato. Il nostro progetto si pone l'obiettivo di avere tutte e tre le fasi del materiale, quindi dal disegno, prodotto e infine riciclo. Quindi abbiamo una certa completezza nel servizio che offriamo. L'utente finale può portare il materiale già riciclato avendo uno sconto su quello che poi andrà a comprare, oppure può comprare un prodotto nuovo che è comunque fatto di materiale riciclato. Potrebbe essere una nuova soluzione a un vecchio problema. Si chiama invece Healthy, lo store del benessere che semplifica la vita, il progetto che ha vinto la categoria Food. Pietro Benvenuti dell'Università Bocconi. Avevamo molte idee creative, ma avevamo anche delle idee più concrete e incentrate sui bisogni. Da questo è nato Healthy. Ci siamo guardati attorno e abbiamo visto che il mercato richiedeva un punto di vendita, un concept realizzato per categorie di utenti che presentano dei problemi di natura alimentare, come per esempio intolleranza al lattosio, celiaci e problematiche legate al sovrappeso. Quindi abbiamo deciso di concentrare la nostra attenzione su questi segmenti e realizzare Healthy. Punto vendita suddiviso per aree tematiche, come già detto prima, in relazione a diverse problematiche, in cui vengono serviti dei prodotti particolari che solitamente non si trovano, per esempio, nei punti vendita di più piccole dimensioni e negli ipermercati si trovano, ma ancora in maniera ridotta. A questo genere di prodotti unisce anche diversi servizi di tipo più ricreativo, come per esempio l'offerta di tisane particolari, una sorta anche di erboristeria all'interno del punto vendita. Poi comunque la realizzazione del negozio, del concept, segue anche delle logiche di sostenibilità ambientale, quindi è realizzato in particolari materiali e si ricollega anche al concetto di green, che ultimamente è molto importante. Sono tutti progetti subito realizzabili, ci dice il presidente della giuria, il sociologo dei consumi Francesco Morace di Future Concept Lab. È la prima volta che quasi tutti i progetti hanno un elemento di pragmatismo e di realizzabilità, che è una cosa che i ragazzi molto spesso non considerano così importante. Tutti i progetti vincitori invece hanno nello stesso tempo una capacità di visione, quindi questo elemento paradigmatico, ma anche una grande possibilità di essere realizzati, e questo noi pensiamo in questo momento per l'Italia è molto importante. Siamo in un periodo di crisi dei consumi, lo sappiamo. Come sta cambiando il retail in questo periodo? Il retail intanto sta capendo di essere una grande risorsa, cioè un elemento attraverso cui costruire l'esperienza dei possibili consumatori. Nella fase precedente la comunicazione era più importante, l'immagine costruita della marca e o anche del prodotto. Oggi torna a essere molto importante, come nei mercati o nei mercatini, il luogo fisico. Ecco, quindi la cosa anche che ci è molto piaciuta in tanti progetti, questo dare centralità all'esperienza concreta dentro il punto vendita. Grazie ad Alessandra Tedesco per le interviste. Ora cambiamo argomento con il direttore di Markup Luigi Rubinelli. Torniamo a parlare di ebook e e-reader tra librerie e negozi di elettronica. Già altre volte ci siamo occupati di e-reader. Nelle grandi superfici specializzate come Media World o Feltrinelli è boom di vendite. I motivi sono molti. Il sito di Media World, ad esempio, ha un catalogo scaricabile di ben 5.000 titoli, dai grandi e piccoli editori, dal romanzo a qualche titolo di editoria specializzata. Ai suoi clienti la catena mette a disposizione una tessera prepagata grazie alla quale chiunque può scaricare sul e-reader il libro desiderato. Anche la Feltrinelli, che è contemporaneamente casa editrice e libreria, dispone sul suo sito di oltre 500 titoli scaricabili ad oggi. La casa editrice però non pensa soltanto a fornire un libro in formato elettronico, ma sta pensando di proporre un nuovo tipo di libro, ad esempio un libro fiction con il finale aperto, tutto da inventare successivamente all'acquisto. Per chi è alla ricerca di manuali, Feltrinelli proporrà a un prezzo ragionevole anche aggiornamenti, sempre scaricabili dal sito, che diventa a questo punto una potente macchina di servizio. ma tutti, librerie o catene di elettronica di consumo, sperano e tifano per una riduzione del prezzo di vendita. Qualcuno si azzarda già a dire che raggiungerà entro breve i $100, a parità di prestazione si intende. Con questi prezzi ovviamente gli editori andranno a nozze perché finalmente potranno parlare concretamente di riduzione dei costi grazie all'abolizione della carta in grandi volumi. Essere e avere. Di nuovo in studio con Essere Avere, ormai ve ne sarete accorti, non possiamo più farne a meno. Quando il tema ce lo consente, ci piace introdurre con una canzone ad hoc il focus sui trend che occupa tutta questa seconda parte. Siamo in compagnia, come sempre, della nostra esperta Patrizia Martello, docente di sociologia dei consumi e analisi delle tendenze alla Nuova Accademia di Belle Arti NABA di Milano. Patrizia, ben ritrovata. Grazie, buongiorno. In realtà noi oggi parliamo non di family ma di family, avete capito bene, la R non è un errore, deriva dall'unione di friends, amici, e di family, famiglia appunto. Un neologismo con cui, nel gergo tecnico di chi studia le nuove tendenze, i nuovi fenomeni sociali, si vogliono indicare le cosiddette famiglie per scelta, le comunità di amici che nella consuetudine quotidiana si sostituiscono a quelle di sangue, per così dire. Un cambiamento dei modelli sociali e familiari che porta con sé un nuovo universo di prodotti e servizi. Patrizia. Family è intraducibile, è un buco nel vocabolario culturale italiano che ci dice anche dello stato di penetrazione di questo concetto nell'immaginario sociale, uno stato di penetrazione basso. Le family sono quelle famiglie a geometria aggregativa variabile e anche instabile, con un aggettivo che metaforicamente rende bene l'idea, possiamo dire che sono liquide in cambiamento sia nella composizione familiare ma anche e soprattutto nella natura dei legami su cui questo specifico nucleo si fonda, che come dicevi sono appunto legami per scelta. I membri della family sono generalmente dei single, quelle identità molecolari celebrate da Ethan Waters nel celeberrimo Urban Tribes di qualche anno fa, e il tratto distintivo è appunto questo sistema a rete, reticolare, amicale, che li tiene insieme sotto lo stesso tetto o a stretta prossimità fisica, per così dire. E c'è appunto un universo di prodotti e di servizi pensati per le specifiche dinamiche di questo assetto familiare e un universo che segnala alcuni momenti di vita e contesti relazionali molto interessanti. Gli appartamenti in cui vivono le family sono costantemente, per esempio, frequentate dagli amici degli amici e per far fronte alle emergenze affollamento, feste improvvisate, prolungate, ospiti multipli in uno stesso weekend, ecco il divano letto multiplo, si chiama tra l'altro We Are Family ed è la stratificazione di 6 materassini stondati sugli angoli con una struttura contenitiva in midollino. Un oggetto interessante perché è adattivo, un po' transformer, e viene fornito con set di lenzuola, coperte e cuscini. Altra soluzione per l'arrivo di single nomadici, questi couch surfer fluttuanti che si fermano sempre per un po' da ospiti nelle family degli amici. Hanno qualche vestito da lavare, ma la lavatrice, che spesso rimane una e da condividere in queste case, è già occupato, i capi sono veramente pochi, ecco la mini lavatrice portatile Swash in silicone. Pochissima acqua, energia cinetica, la si scuote, si lavano fino a 3 kg di indumenti. Ibidem per l'uso della doccia. Shower timer è uno dei moltissimi dispositivi elettronici per la casa che misurano i consumi, in questo caso l'acqua. È una piccolissima goccia verde con uno schermo che visualizza ogni litro d'acqua dissipato con eventuale segnalatore sonoro. Quindi l'ultimo membro della family che fa la doccia non rimane sicuramente senza acqua calda. Un altro grande tema è usare gli spazi comuni temporaneamente convertiti a usi specifici, ufficio, relax, ma anche gioco o allenamento o convivialità. Ecco il tappeto multifunzionale riponibile Land Peel, si distende a terra e i vari pannelli rigidi, semirigidi di cui è composto, ripiegandosi si trasformano in sedute, appoggi, tavolini. E per isolarsi fisicamente, soprattutto per lavorare, c'è il Rewrite Desk, lo scrittoio postazione lavoro con una specie di bozzolo che ci avvolge. È esposto al Museum of Art and Design di Copenaghen dal 2009 e dal gennaio 2011 è in produzione con Ligne Rosé. È una sorta di mezza sfera molto intima che isola parzialmente dagli altri e grazie a un dispositivo acustico vengono attutiti in entrata e in uscita i suoni, quindi si può sentire il campanello, la voce degli altri che ci chiamano e allo stesso tempo attutire la nostra stessa voce, per esempio, mentre stiamo telefonando. A intercettare per prime questo cambiamento sono state molte serie televisive, da Seinfeld a Friends, da Sex and the City a Will and Grace, fino alla più recente Sons of Anarchy. Praticamente due uomini diventano amici soltanto perché sono uomini. Sì, è quasi tutto quello che ci serve avere in comune, perché lo sport e le donne è tutto quello di cui parliamo. Se non ci fossero lo sport e le donne, la sola cosa che diremmo sarebbe: che cosa c'è nel frigo? Guardatevi intorno, ragazzi. Questa è stata la vostra prima casa. Una casa felice, piena di amore e di risate. Ma ancora più importante di questo è stata una casa ad affitto bloccato. E non so se credere all'anima gemella. Forse siamo noi le anime gemelle l'una dell'altra. E lasciamo che gli uomini siano solo quegli straordinari ragazzi carini con i quali divertirsi. Non male come programma. 35 anni. No, oh, chiudi quella bocca, io ne ho 140. Scusa, perché non dovrebbero accettarti? È diverso con Vince, lui è un maschio e noi siamo italiani. Tutti i maschi italiani sono gay. Perché il paese ha la forma di uno stivale da drag queen. Siamo solo meccanici e appassionati di Harley. Se ami il tuo uomo, impari ad amare anche il club. Patrizia, dalla TV al cinema, a molti saranno venuti in mente in questo momento i film di Ferzan Özpetek. Come spesso accade con il cinema, soprattutto con le serie televisive, si può perfettamente e spesso in anticipo capire un fenomeno, una tendenza, un cambiamento sociale appunto guardando un film o una serie. Ed è uscito un film che si chiama proprio Family, svedese, nel 2010 ed è chiaramente sulle vicende di sei amici che decidono di vivere insieme. È uno spaccato di vita quotidiana che mostra come questa tipologia familiare riesca a rispondere ai desideri affettivi dei singoli membri, ai bisogni di mutua assistenza del family running quotidiano e costituisca un gruppo di riferimento influente sulle scelte sentimentali, lavorative e amicali al di fuori del cerchio interno. La family è di fatto una tribù familiare, una comunità il cui totem è appunto la convivenza sotto lo stesso tetto. E fuori dall'idillio celebrato dal celeberrimo spot Barilla del 2009, quello con la voce narrante di Mina, c'è comunque la routine del quotidiano, aiutata per fortuna anche e soprattutto dalla tecnologia e dall'elettronica di consumo, categoria molto interessata a questa nuova tipologia di famiglia, tanto che per esempio quest'anno il tema del Samsung Young Design Award è per l'appunto New Electronics for New Families ed è tutto orientato allo sviluppo di nuovi concept tecnologici per i nuovi bisogni e i nuovi desideri delle famiglie contemporanee, tra queste senz'altro la Family. Allora abbiamo la sveglia, per esempio, che sveglia solo chi la punta e non disturba gli altri. Si chiama Alarm Pillow, è un cuscino che vibra e appunto non sveglia l'altro o gli altri nella stanza. Una linguetta laterale numerata serve da puntatore. E sempre in tema di prossimità, intimità, che deve fare i conti con privacy e con l'interferenza non solo sonora, il segnalibro luminoso notturno, The Book Light, che è esattamente come quelli cartacei, ma con un corpo traslucente regolabile in intensità con un tocco, quindi si legge nel buio di nuovo senza disturbare. Tutti gli spazi della casa comuni, tranne le stanze, sono necessariamente spazi multifunzionali e flessibili. Così mobili e divani cominciano a incorporare prese USB, i tavolini fanno magicamente sparire fili, prese, memorie esterne, telecomandi, eccetera. In cucina un'application per iPad si chiama Kitchen iPad Timer, per esempio, fa visualizzare i fuochi a intensità intensità diversa e i relativi timer per gestire contemporaneamente padelle con cibi messi a cuocere in momenti diversi da persone diverse della Family che vogliono mangiare più o meno allo stesso orario. La Family è di fatto la versione offline delle comunità estetiche della rete, ma riproduce allo stesso tempo le dinamiche e i valori della cultura digitale, quindi la condivisione, l'individualismo riconciliato con la gruppalità, l'autenticità dei legami. Applicazioni di geotagging come Gatsby o Looped Mix sono pensate appunto per mettere in contatto persone con profili e interessi compatibili, con le stesse location frequentate grazie a Foursquare, che cerca appunto localmente le persone potenzialmente simili. L'idea è proprio quella di creare una sorta di circolo sociale di piccoli o grandi gruppi amicali con affinità elettive. Cosa c'è di nuovo a... Cosa c'è di nuovo a Chicago su Family e dintorni? Ce lo racconta la nostra Urban Watcher Alessia Zampano di Memetti Club. Ciao Alessia. Un saluto a tutti. Dunque, che le relazioni amicali siano diventate un modello di famiglia alternativo, come dicevate, è dimostrato anche dalla crescente diffusione, soprattutto oltreoceano, di siti che, sul modello di quelli di dating, promuovono l'incontro tra le persone allo scopo di far nascere nuove amicizie. L'ultimo nato è Grab With Us, Mangia con noi, un servizio che organizza cene di gruppo nei ristoranti della città. Collegandosi al sito compare subito una frase che dice, traduco, prenota un posto per uno dei nostri pasti family style, come se fossi in famiglia appunto. Il meccanismo è molto semplice, cliccando sul pulsante guarda i pasti appaiono tutti gli appuntamenti del mese con data, luogo, ora, menù, costo e la possibilità di vedere i profili delle persone che vi parteciperanno. Insomma, basta solo scegliere la sera e il luogo che si preferisce e poi incontrarsi davanti a del buon cibo che è storicamente il migliore dei collanti sociali. Il numero dei convitati si aggira intorno alle 12 persone e come gli acquisti di gruppo insegnano il prezzo si abbassa quante più persone prenotano e si hanno a disposizione 2 ore per socializzare. Grazie Alessia. Patrizia, non necessariamente le famiglie per scelta sono in contrapposizione con quelle naturali, tradizionali. No, Family è la famiglia sociale, una famiglia per scelta appunto reinventata che non si contrappone alle altre tipologie di famiglie che a volte addirittura può incorporare o generare, cioè le coppie che si formano nella comunità di amici, i figli che nascono, eccetera. Con la progressiva dissoluzione delle famiglie tradizionali, esplose, diventate allargate, verticali, miste, svincolate dal matrimonio, eccetera, la Family è proprio paradigmatica del passaggio dalla famiglia naturale a quella elettiva sociale. Finisce qui anche questa puntata di Essere Avere, resta solo il tempo per ricordarvi il nostro sito radio24.it dal quale potrete riascoltare e scaricare questa come tutte le altre puntate in attesa di risentirci come sempre domenica prossima. Non mancate, un saluto da Maria Luisa Pezzali.